Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Buon martedì, cari ascoltatori di Blu Radio Veneto, e bentornati a Il bene di tutti, parliamone, rubrica a cura dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Chi vi parla è Andrea Canton. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di temi di strettissima attualità, politica, economia, lavoro, tutte faccende che, qualcuna più, qualcuna meno, trovano spazio nei quotidiani e nei telegiornali, e le abbiamo viste alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Questa settimana parleremo però di un tema di cui i TG e i quotidiani si occupano purtroppo pochissimo: la cooperazione internazionale. Da più di 30 anni, alla fine dell'epoca coloniale, è in corso una costante migrazione dall'Africa verso l'Europa, verso l'Italia e verso il nostro nord-est. E se pensiamo ad Africa, la nostra mente si rivolge subito ad immagini generiche e assolute di fame, povertà, guerra, sfruttamento, ignorando grossolanamente non solo le profonde differenze interne all'Africa, tra nicchie di benessere e la disperazione più assoluta, ma anche le profonde risorse che il continente nero sta iniziando a scoprire dentro di sé. Aiutiamoli a casa loro, uno slogan ripetuto fino all'inverosimile, a volte da voci che più all'aiuto tra paesi sembrano tenere alla segregazione tra i popoli, ma questo è un altro discorso. Ma cosa abbiamo fatto per aiutarli a casa loro? Spesso ci siamo limitati, credendo di metterci così la coscienza a posto, a mandare qualche aiuto a fondo perduto, qualche spicciolo, cibo in scatola e magari, già che ci siamo, un po' di latte in polvere prodotto da qualche importante multinazionale. Eppure, negli ultimi anni si è imposto un nuovo modello, che sembra ottenere di gran lunga più risultati rispetto ad ogni altra forma di sostegno. Stiamo parlando della cooperazione decentrata. Di che si tratta? Ne parleremo tra pochissimo, ma intanto ascoltiamo le parole di Papa Benedetto XVI proprio a questo riguardo. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. I programmi di sviluppo, per poter essere adattati alle singole situazioni, devono avere caratteristiche di flessibilità e le persone beneficiarie dovrebbero essere coinvolte direttamente nella loro progettazione e rese protagoniste della loro attuazione. È anche necessario applicare i criteri della progressione e dell'accompagnamento, compreso il monitoraggio dei risultati, perché non ci sono ricette universalmente valide. Molto dipende dalla concreta gestione degli interventi. Artefici del proprio sviluppo, i popoli ne sono i primi responsabili, ma non potranno realizzarlo nell'isolamento. Oggi, con il consolidamento del processo di progressiva integrazione del pianeta, questo ammonimento di Paolo VI è ancor più valido. Le dinamiche di inclusione non hanno nulla di meccanico. Le soluzioni vanno calibrate sulla vita dei popoli e delle persone concrete, sulla base di una valutazione prudenziale di ogni situazione. Accanto ai macro progetti servono i micro progetti e soprattutto serve la mobilitazione fattiva di tutti i soggetti della società civile, tanto delle persone giuridiche quanto delle persone fisiche. La cooperazione internazionale ha bisogno di persone che condividano il processo di sviluppo economico e umano mediante la solidarietà della presenza, dell'accompagnamento, della formazione e del rispetto. Abbiamo con noi Maria Lucina Rigoni, responsabile del gruppo donne di Ponte San Nicolò, un gruppo che da più di 10 anni sostiene progetti per la regione agricola di Kolda in Senegal. Piccoli progetti, micro progetti come li ha definiti Benedetto XVI, ma che hanno veramente portato dei profondi mutamenti in quel tessuto sociale. Grazie Lucina per essere con noi. Grazie a voi che mi avete invitato. Si riconosce in queste parole che abbiamo appena letto? molte di queste mi riconosco bene, nel senso che il progetto ha rispettato per alcuni, per molti aspetti, questa logica. Come avete iniziato e come mai un gruppo donne di un piccolo comune è divenuto capofila di una serie così importante di iniziative? Allora, probabilmente il motivo semplice è che mi sono fidata un po' di questo personaggio che avevo conosciuto, che è il presidente dell'ONG in Dio Bomballo. E allora, comunicando col gruppo donne, loro percependo tutto il significato e anche le motivazioni per iniziare un progetto con delle persone che sicuramente avevano bisogno. Per cui è partito tutto questo progetto 11 anni fa e diciamo che ci ha dato anche molta soddisfazione perché abbiamo ottenuto dei risultati buoni e soddisfacenti e soprattutto proprio nel rispetto delle logiche loro e delle modalità culturali loro, perché altrimenti se ci si sovrappone non si riesce ad avere una crescita reale della società civile. Quali sono stati i primi progetti che avete portato avanti? Allora, siamo partiti con piccoli progetti, siamo partiti con progetti di microcredito, del credito rotativo delle capre, e soprattutto legati al microcredito, tutti i progetti di alfabetizzazione delle donne e soprattutto anche lotta all'infibulazione. Quindi siamo partiti proprio per progetti con le donne. All'inizio erano anche piccole cifre, però anche piccole cifre in condizioni di grande difficoltà di sopravvivenza vanno molto bene perché inizia un nuovo percorso. E dopo è proceduto per esempio con gli orti, tutta la coltivazione degli orti, dopo abbiamo cominciato che legato particolarmente alle donne, visto che loro sono lungo un fiume, anche i progetti di coltivazione del riso. Credito rotativo delle capre, come funziona? Il credito rotativo delle capre, e questo rientra anche in quel messaggio che ho sentito prima, che mi avete detto del Papa, funziona proprio con un'osservazione di Emballo, che è sempre il presidente dell'ONG, che aveva, girando nei villaggi, aveva colto questa caratteristica loro che era il prestito delle capre. Allora è iniziato un progetto che si chiama Credito Rotativo delle Capre, per cui l'ONG dà a una donna due capre femmine. Due capre femmine e dopo, e questo garantisce il mangiare prima che qualche volta, una volta due all'anno, possono mangiare la carne. E soprattutto permette anche l'utilizzazione di quel materiale di scarto che le capre mangiano tutto, compreso il cartone. Almeno questo l'ho visto con i miei occhi perché comunque è cellulosa. Ecco, dopodiché quando le due capre fanno i capretti, i primi due capretti restano di proprietà della donna e ne può fare quello che vuole. La seconda nascita di capretti invece viene restituita all'ONG in maniera che con le due capre vengono date un'altra donna che entra dentro nel progetto e così di seguito nel tempo. Ecco, io direi che questo progetto è uno dei progetti che parlando con le donne lì nei villaggi ha dato più soddisfazione ed è partito proprio da una realtà, una cultura che gli apparteneva solo che è stata incentivata con fondi. Grazie Lucina, ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Va bene. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori per l'11ª puntata del Bene di Tutti Parliamone. Stiamo parlando per l'appunto di cooperazione internazionale e di cooperazione decentrata con Maria Lucina Rigoni, responsabile del gruppo donne di Ponte San Nicolò, che da anni sostiene dei progetti per il Senegal, in particolare la regione di Kolda. Grazie per essere con noi. Sono qua e sono contenta anche di partecipare a questa trasmissione che penso che può dare un messaggio utile alle persone. Un altro dei progetti che avete portato avanti è stata l'installazione di alcuni mulini elettrici. Mulini che dovevano essere elettrici, ma non essendo lì nei villaggi la corrente, non essendoci la corrente elettrica, non era possibile, per cui hanno installato in quei mulini dei motori a scoppio. Ma perché dei mulini? Il motivo dei mulini è che prima le donne erano, cioè, ancora adesso, perché siamo arrivati a due mulini in due villaggi, dopo le donne si spostano perché lì camminano molto, però ancora diciamo che è un processo in corso, perché le donne dovevano occupare parecchie ore del giorno a pilare il miglio, il grano, tutte queste cose qua, con le mani, che non so se avete presente, che vedete, si vede qualche volta in alcuni programmi della televisione, questi grandi calici di legno con un bastone che lo pestano finché viene frantumato e può essere utilizzato. Ecco, questo lavoro che dura ore e ore e ore, in cui cominciano da bambine piccole, eccetera, ha deformato le mani delle donne in maniera impressionante. Ecco, diciamo che questo non è legato alla loro cultura, però sicuramente è un aiuto per migliorare la loro situazione di vita. Anche perché allora è possibile pensare che le bambine potessero andare a scuola, cioè dovendo occupare meno tempo a fare tutti questi lavori, le donne hanno più tempo anche per fare altre cose, una di queste per le bambine in particolare è quella di andare a scuola. Un altro progetto è stata l'introduzione massiccia di una pianta sudamericana, la cosiddetta Iatropha curcas. Sì. Ce ne può parlare perché ci sono state anche recentemente delle polemiche sull'introduzione da parte di alcune multinazionali di questa pianta, ma per altri scopi. Esattamente, che è una cosa vergognosa quello che hanno fatto. Nella zona anche lì proprio in Senegal, di Saint-Louis, che hanno tolto le terre ai contadini per coltivare la Iatropha, che ha come funzione la costruzione, la produzione del biocarburante. Ma voi come lo utilizzate? Ecco, mentre invece siamo rientrati, e qui è stata anche una buona soluzione, perché siamo rientrati in un progetto europeo di lotta contro la disertificazione. Ecco, nella lotta contro la disertificazione sono state scoperte due robe. Uno, che la Iatropha cresce con climi secchissimi, e perché utilizza anche il pochissimo di umidità dell'aria. Secondo, che i semi di Iatropha sono uno dei migliori concimanti esistenti in natura. Terzo, che la velocità di crescita permette di impiantarla tutto intorno, per esempio gli orti, che è stato uno dei nostri progetti, anche l'orticoltura, e di mettere tutta la Iatropha intorno, che costruisce come delle barriere, in maniera che quando c'è il vento e ci sono queste tempeste di sabbia, queste barriere molto alte di Iatropha proteggono gli orti e le coltivazioni dalla sabbia, per cui dopo loro riescono a mantenere, non avere distrutto l'orto, diciamo, e mantenere la coltivazione. Quindi la Iatropha può avere molte funzioni, sicuramente quello di concimante, uno dei migliori in natura, e quello di protezione degli orti è una delle funzioni migliori che può avere. Ecco, il progetto in cui noi siamo rientrati della comunità europea è questo, e hanno iniziato l'anno scorso. Stiamo parlando di una serie di aiuti, i famosi aiutiamoli a casa loro, ma sì, ci sono altri possibili modi per dare una mano. Però paradossalmente alcuni di questi potrebbero in qualche modo andare contro la popolazione. Mi spiego, se io decidessi di donare 10 tonnellate di riso ad uno dei villaggi che ha visitato, sì, farei un'azione meritoria oppure in qualche modo potrei andare contro ai loro principi? Allora, diciamo che se in questo momento, che sono in una crisi alimentare grandissima, nel senso che c'è stata la stagione delle piogge ha durato molto poco, per cui hanno avuto una scarsa produzione, soprattutto per esempio loro hanno due raccolte di riso, la seconda questa volta non ha funzionato perché non c'era acqua. Questo qua in questo momento storico non è andare contro di loro, mandare del riso, è garantirgli di poter lavorare nella prossima stagione delle piogge in maniera da avere di nuovo produzione. Ecco, diciamo che andare contro di loro significa fare i progetti come quello che è stato fatto su lui, che tu gli tiri via le terre e coltivi quello che vuoi tu senza rispettare la popolazione, cioè quelle terre che una volta loro potevano avere quel po' di produzione di orto nella stagione delle piogge, un po' di semi, le perdono. E questo è il disastro che può venire fatto. In secondo luogo, e qui volevo proprio per rientrare in questo discorso in maniera precisa, noi l'anno scorso abbiamo avuto una proposta della Valbona che dismetteva delle catene di imbottigliamento per la conservazione del cibo, ci ha contattato perché era disposto a regalare queste cose nella zona di Colda, all'ONG che noi seguiamo. Ecco, noi abbiamo avuto i contatti con loro se valeva la pena o no. Allora, primo, non c'era corrente elettrica stabile, quindi quella era impossibile fare questo progetto. Però loro avevano dato disponibilità ad andare a fare dei corsi in loco sulla conservazione del cibo. Bene, io ho fatto questa proposta, loro mi hanno chiesto il tempo di pensare, mi hanno risposto così, che loro ritengono che prima di tutto bisogna salvaguardare la tradizione loro di conservazione del cibo, che loro dovevano parlare con le donne e pian piano vedere se c'era richiesta di questo tipo, ma la prima cosa che loro volevano è rispettare anche le loro tecniche di conservazione, perché su quelle erano abituate da una vita. E quindi era da costruire lentamente questo progetto. Ecco, questa risposta io l'ho ritenuta molto rispettosa di loro e interessante. In questi 11 anni ci sono stati dei progressi, e ricordo che comunque voi siete andati più volte a toccare con mano. Sì. E avete visto un miglioramento. Sì, noi abbiamo visto un miglioramento, soprattutto degli orti, cioè io ho visto un ingrandimento della zona dedicata agli orti, grandissima. E soprattutto la cosa che mi è piaciuta molto è aver parlato con le donne, di cui potrei fare un racconto, per cui mi hanno molto ringraziato. Per esempio, una donna che era andata a vendere i suoi prodotti, perché col microcredito, una delle robe che vanno a vendere i mercati anche di Dakar, i loro prodotti dell'orto. Ecco, che era andata col tassì. I tassì lì non costano come in Italia, solo in Italia costano tantissimo. Ecco, e in questo modo lei mi ha detto: io sono andata a scuola, ho imparato a leggere e scrivere, quando sono scesa dal tassì avevo letto la targa e avevo lasciato in macchina il portafoglio e io ho potuto, avendo letto, recuperare i miei soldi perché ho ritrovato il tassista. E di questo ci ha ringraziato come esempio. Uno di tanti esempi, insomma, di come queste piccole cose possono cambiare la vita. Ma come possiamo estendere questo modello, che possiamo definire un modello vincente, anche alla cooperazione generale e istituzionale degli stati? Io credo che... Cioè, io dico anche una cosa semplice. Non è semplicissima questa cosa, perché una delle cose difficili per noi europei andare in Africa, in queste zone, non il Marocco, non l'Egitto, eccetera, è rendersi conto della diversità culturale, no? Ecco, e andare incontro a questa diversità culturale, rispettandola e non volendosi sovrapporre dicendo queste sono le regole, non si può non avere l'orologio sul polso, che loro ci prendono in giro che siamo malati di tempo, no? Cioè, bisogna, agire in maniera che loro possano pian piano, cioè io vedo che grandi cambiamenti sono dati per esempio dall'esercizio di avere soldi in tasca, no? Danno cambiamenti perché ti permettono di sentire di avere qualche diritto, tipo ad avere il medicinale, di andare a scuola, comprarti il libro, queste cose qua. E sono passaggi storici importanti. Si può andare come ha fatto quella multinazionale a Saint Louis, che tu ti fai dare le terre, coltivi le tue robe e gestisci tu. Però si può andare anche un altro modo, che tu vai lì coltivare carciofi e asparagi, perché li mangi però loro. Utilizzi il personale loro almeno vengono pagate delle persone in loco. E soprattutto possa essere utile alla popolazione e locale, non solo esportata. Possono essere utili anche loro e dopo resta una terra che comunque diventa produttiva. Grazie infinite, Lucina, ecco, per la testimonianza. Grazie a voi e buon lavoro. Ricordo l'appuntamento di sabato 24 marzo presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario a Padova. A partire dalle 15.30 l'incontro Mass Media e New Media, quale contributo all'etica civile con Don Marco Sanavio. Ci troveremo noi nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul podcast, sul nostro sito, o potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.